Ciao, sono Gabriele Avanzinelli, abito in Germania, in una piccola città chiamata Moers, vicino a Duisburg. Ho 37 anni e insegno in una scuola inglese e tedesco.